Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, abbiamo parlato tanto e mai come oggi di Europa, naturalmente in una chiave tutta particolare. Allora io mi limiterò oggi a farvi sentire un documento, perché è il primo commento del presidente della Commissione Juncker. Sentiamolo insieme. The union of 27 member states will continue. This is an unprecedented situation. Una situazione senza precedenti, ma dice Juncker, l'Unione a 27 a questo punto continua. Dunque la Brexit, ha detto il presidente Jean-Claude Juncker, non rappresenta la fine dell'Unione. Questo è il punto che in una conferenza stampa, come dire, gremita di giornalisti, la massima autorità esecutiva dell'Unione Europea ha voluto sottolineare. Dall'altro punto di vista, il presidente invece del Consiglio UE, Donald Tusk, sentiamolo un momento. There's no hiding the fact that we wanted a different outcome of yesterday's referendum. I am fully aware of how serious or even. Non nascondiamo ovviamente il fatto che auspicavamo un esito completamente diverso del referendum di ieri. Questo è il Donald Tusk che si prepara con la valigia. Infatti ha annunciato già in queste ore l'inizio di un tour europeo, e un tour europeo che praticamente è un percorso attraverso i paesi fondatori, quindi anni 50, l'Italia, la Germania, la Francia. Naturalmente tra i fondatori ci sono anche il Belgio, Lussemburgo e Olanda, ma insomma nel nucleo forte, perché questo è il momento di tirare le fila, trarre evidentemente le lezioni e si vedrà, ma insomma, come hanno detto le autorità di Bruxelles, di riprendere un nuovo cammino, ma sicuramente hanno detto chiaramente non certo di interromperlo. Inutile andare oltre, per adesso è tempo anche di rilassarci, di tornare ai campi di gioco, quindi tutti convocati. Naturalmente avremo modo poi di tornare sull'attualità della Brexit. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.